Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Jar of Bones. Come si chiamava questa canzone? Questa era Damn Flies, ovvero la canzone delle mosche. Tutti ci hanno sempre chiesto, ma come mai questo titolo? Come... Niente, semplicemente è un insetto che ci dà molto fastidio. E quando l'abbiamo composta, eravamo nel profondo sud, in Calabria, durante un mini tour, e noi seduti fuori in un tavolino con qualche birretta, e c'erano queste migliaia di mosche che ci rompevano l'anima. E da lì è nata l'idea, appunto, di dedicare a questo fastidiosissimo insetto una canzone. Dopo questo disco, quali sono gli obiettivi che attendono la vostra band per il futuro prossimo? Assolutamente suonare, anzi faccio un appello a chiunque abbia un locale o un garage o anche semplicemente una piazza, noi siamo disposti a suonare sempre e comunque, a qualsiasi condizione, e vi prego, sostenete la musica emergente, perché ci sono veramente grandi artisti in Italia che possono veramente tener testa a molti gruppi che vengono dall'estero. Ora è il turno di quale canzone? Adesso sentiamo Junkie. I won't kill my life into this world. Nothing seems to be like when I'm down. You on the outside of your life. You on the outside of your life. I can't hear enough of what you think. Il tempo scorre e noi siamo in chiusura di puntata. Voi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un sincero grazie a Nicola dei Jar of Bones per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno per la presentazione di un futuro CD. A te la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album e un calendario di live dei prossimi programmi e dei prossimi appuntamenti. Beh, intanto grazie Jean-Luc per averci ospitati e per i nostri contatti abbiamo www.myspace.com/jarofbones, altrimenti ci trovate su Facebook, basta digitare Jar of Bones e diventare fan, e info le trovate su info@jarofbones.it. e per acquistare il CD o semplicemente ascoltarlo potete andare su iTunes o sul sito della Audio Globe o in qualche negozio, in qualsiasi negozio potete anche ordinarlo. E niente, io vi ringrazio ancora per averci ospitati e per la botta di cultura che mi ha dato Jean-Luc questa sera e continuo a ribadire: sostenete la musica emergente. E vi ricordo che per i prossimi live noi ora ci stiamo concordando con la Get Rocket, che è la nostra società di booking, e tutte le informazioni le trovate nei siti che vi ho comunicato prima. Brano di chiusura di questa puntata: My Magdalene. Jean-Luc e Nicola dei Jar of Bones vi salutano, noi ci risentiamo venerdì prossimo, ciao!